senti, passa su di noi come un temporale che ti sorprende, però poi torna ancora il sole. Il tempo non si ferma mai, non sa aspettare e ci si accorge quando ormai è tardi e